Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Maledetto! Maledetto! Hai fatto uccidere mio figlio, che non c'entrava niente. Lui... Lui cercava solo di proteggermi. Non aveva mai fatto del male a nessuno. Che ne sapete voi? Che è successo? They say it fades if you let it. Si è aperta così anche la quarta parte di Eclettica, che è l'ultima di questa settimana in compagnia di Giulio Caperdoni, parte in cui avete già sentito un altro spezzone di Profondo Rosso, che esattamente come la settimana scorsa e anche il film di questa settimana, dove nella scorsa settimana si era dato spazio più agli spezzoni della prima parte del film, in questa seconda settimana stiamo dando invece spazio ovviamente agli spezzoni della seconda parte del film, seguendo un ordine cronologico che dovrebbe essere stato preciso, a meno di miei errori non voluti. E soprattutto gli spezzoni di questa ultima parte, come anche quelli già di ieri, sono i tipici spezzoni, nel caso che non abbiate ancora visto il film, che vi stanno rovinando la sorpresa. Ce n'è ancora uno, quello finale, che mi riservo più avanti in questa quarta parte di Eclettica. Ci siamo ascoltati Contriva con Separate Chambers, quello che è il loro nuovo album per More Music, che è stato oggetto anche proprio quest'oggi di Pillola I Can Wait, e la traccia in cui abbiamo sentito la voce di Masha Krella a chiudere l'intero album. E proseguiamo invece con un album che da qualche settimana ci stiamo ascoltando con però un periodo di sospensione, non passava da uno o forse due, quello degli Swan Lake, ovvero sia questa formazione di cui fanno parte membri dei New Pornographers e dei Wolf Parade. Swan Lake, che escono con Beast Moans per la Jack Jaguar. L'album è uscito ufficialmente nei negozi di dischi il 21 di novembre, nonostante noi lo stiamo trasmettendo da più di un mese, e la traccia che di solito io faccio ascoltare, e anche quest'oggi confermo questa scelta, è la numero 5, All Fires. People means 500 dawn. Esplorazioni rettali, triangoli del disamore. C'è una chitarra che fa pin e che entra nel pam. Esplorazioni rettali, il basso macina rosso e grosso. Ops, dimenticavamo di dire dei suoni un po' storti, blu tinto di rosso. E la batteria? Anche lei è un po' storta, contorta, corta, ma mai scoppia? E tutto il resto sa di preservativo. Puah. E Miranda? Miranda chi è? Queste sono le parole dei tre Miranda, toscani, che incidono per From Scratch e hanno deciso di presentare con queste parole Rectal Exploration, il loro album dal quale noi ci siamo ascoltati in eclettica Mono Sex Files. Ed ora invece Sub Pop. Loro sono gli Oxford Collapse e questa è Please Visit Your National Parks. Quello che voglio sono fatti. A questi ragazzi e ragazze insegnate soltanto fatti, solo i fatti servono nella vita. Non piantate altro e sradicate tutto il resto. Solo con i fatti si plasma la mente di un animale dotato di ragione. Nient'altro gli tornerà mai utile. Con questo principio educo i miei figli, con questo principio educo questi ragazzi. Attenetevi ai fatti, signore. La scena si svolgeva in un'aula spoglia, anonima, monotona, lugubre. Per dare enfasi a queste osservazioni, l'oratore sottolineava ogni frase, tracciando con l'indice quadrato una linea sulla manica del maestro. A dare ancora più enfasi alle parole dell'oratore c'erano il muro quadrato della sua fronte con le sopracciglia per base e sotto gli occhi, comodamente annidati in due oscure e ombrose caverne scavate nel muro stesso. Questo era l'incipit di Tempi difficili di Charles Dickens. The First Vietnamese War, erano questi The Black Angels da Austin, Texas. Ci stiamo avvicinando e di molto alla fine di Eclettica per l'intera settimana. Io però nel frattempo comincio a preoccuparmi perché il secondo disco, già avevo fatto un cenno settimana scorsa rispetto al primo, è il secondo disco che mi arriva dalla Svezia, dalla Labrador, che non mi soddisfa a pieno. Che stiano anche loro perdendo i conti, ci sta perché le etichette hanno i periodi di alta e i periodi di bassa. Speriamo che non sia cominciato un periodo di bassa per la Labrador. Loro si chiamano Irene, ci ascoltiamo Little Things. crazy little things that always tear us apart. Every time I look the other way, I know we're drifting worlds apart. Can't believe my ears. What an eerie rhyme. If there was our time, we would be married or buried all the way back home. Don't you know that it's the stupid little things drive us out of our minds? Every time we try to get along, I fall back into the line. Can't believe my ears. What an eerie rhyme. If it was our time, we would be married or buried on the way back home. Non preoccuparti, non ti succederà niente, vedrai. Sta tranquilla, ti accompagnerò io stesso in clinica. No, ti avevo detto che non volevo tornarci. Te lo avevo detto. Non puoi obbligarmi un'altra volta. Ma è per il tuo bene, cara. Hai sentito cosa hanno detto i dottori? No. No. No. Loro si chiamano The Walkman, già ce l'eravamo ascoltati con il brano che apre 100 Miles Off settimana scorsa in Eclectic. Questa settimana hanno avuto l'onore della chiusura. Allora, se volete trovarvi in uno spazio dove si trovano tutti gli altri Eclectic ed Eclettici, l'indirizzo è myspace.com/eclectic. Se invece volete un tête-à-tête, l'indirizzo è giulio@radiorockfm.com. Alla prossima!